24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Romano Prodi, classe 1939, reggiano, sposato con Flavia, due figli, sei nipoti, 115 parenti, ciclista, podista e non usa Twitter. Laureato all'Università Cattolica di Milano con lode, allievo del professor Lombardini, visiting professor ad Harvard e Stanford. Ieri ha ricevuto la 39esima laurea honoris causa. È stato tutto. Due volte presidente dell'IRI, ministro, due volte presidente del Consiglio, presidente della Commissione Europea, inviato speciale del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon in Africa, adesso insegna alla Business School di Shanghai e ha scritto il libro intervista con Marco da Milano, Missione in computa. Sembrava il mediatore ideale per la Libia, ma Renzi, da Lilli Gruber, ha detto: ma lei perché a Prodi non ha chiesto la disponibilità come mediatore in Libia? Perché le Nazioni Unite hanno scelto Bernardino Leon e non un italiano, partendo dal presupposto, così ha spiegato Ban Ki-moon, che era meglio non avere un ex primo ministro di un paese che aveva avuto forti relazioni con Gheddafi. Professore, ha sentito, lo sapeva? Eh? Sì, l'ho sentito. E lo sapeva? Ovviamente. E lo sapeva? Ovviamente. Lo sapeva? Ma veramente nel 2011, quando scoppiò la guerra in Libia, ben 25 leader, capi di Stato africani, avevano chiesto a Ban Ki-moon che io facessi il mediatore. Ban Ki-moon non ha risposto di no. Ha risposto con una lettera, di cui ho copia, in cui dice che avrebbe consultato the relevant member states, cioè la Francia, l'Italia e la Gran Bretagna. Evidentemente Sarkozy e Berlusconi hanno detto di no. Però, ecco, insomma, allora Ban Ki-moon e Renzi, com'è andata stavolta? Renzi non la vuole in Libia? Non lo so, ecco, ma questa volta è diversa, nel senso che il primo ministro libico e il capo dell'opposizione, insomma, e l'associazione delle tribù hanno scritto direttamente a Renzi chiedendo la mia mediazione. Vabbè, non la vuole in Libia. Non lo so, ecco. Mi pare, il risultato è quello. Senta. Non mi ha risposto, ecco, non lo so, insomma. Ecco. Senta, nel suo libro lei ha scritto che uccidere Gheddafi è stato un tragico errore e per l'Italia è stato come entrare in guerra con se stessa, cioè? Evidentemente, no? Cioè, è un paese con cui avevamo rapporti diretti, forti, eravamo il primo investitore, il primo commerciante. E invece è finita così. Abbiamo pagato una guerra contro di noi, ecco, questo è sostanzialmente. In Libia oggi non ci sono però interessi europei, sono inglesi, francesi, italiani che si scontrano tra loro. Ma è questa l'Europa? No, c'è una gran confusione in Libia, non ci sono neanche interessi inglesi, francesi, ci sono interessi di tutto il mondo. Sì. Sulla Libia stanno intervenendo tutti, in modo diretto o indiretto, le grandi potenze, attraverso l'Egitto, attraverso la Turchia, attraverso il Qatar. Ognuno gioca la sua parte. Ma la Francia di Sarkozy ha la responsabilità principale, ucciso di Gheddafi. Ma vede, nella Francia, nella storia francese, spesso si mescolano fattori ideali con interessi molto concreti. E credo che nel caso della Libia si siano proprio mescolati i fattori ideali e quelli concreti. Senta, il segretario generale dell'ONU dice che ha detto ieri che bisogna aiutare i profughi. Perché allora l'Italia non riesce a far diventare la Libia almeno un problema europeo? Beh, qui c'è una grande soddisfazione, se vede il New York Times di ieri l'altro, tutti rimpiangono il Mare Nostrum, cioè l'Italia ce l'aveva fatta. Una cosa era un modello, bisognava implementarlo. L'Europa non l'ha voluto, insomma, lo ha preso in modo formale, riducendolo quasi a nulla, un terzo del suo bilancio, certo, adesso ha riaumentato, ma con dei limiti enormi alla sua fattibilità. Senta, adesso la Mogherini, che ha in mano il dossier dei migranti, c'ha un consiglio da darle? No. Il problema è che riesca veramente a riunire tutti i paesi europei, perché quando si parla del Mediterraneo il vero problema è che c'è mezza Europa a cui non interessa niente il Mediterraneo, questa è la verità, è inutile stare a girare sulle cose, insomma. E quindi, ma secondo lei, dopo le parole di Ban Ki-moon, ha ancora senso parlare di opzione militare o no? Non l'aveva neanche prima. Ma lei crede che i terroristi dell'ISIS siano infiltrati tra i migranti? Ma qualche infiltrato può darsi benissimo che ci sia, ma non ne ha mica bisogno. Cioè, voglio dire, i i terroristi hanno le armi, hanno la loro logistica, hanno le basi d'appoggio. Non c'è bisogno dei barconi. Perché devono arrivare con i barconi quando possono arrivare in prima classe con gli aeroplani? Oppure sono già lì, anzi, la maggior parte sono già lì. Senta, chi finanzia l'ISIS? Complesso, perché lo finanziano. Certamente c'è l'aiuto di alcuni paesi, certamente del Golfo da un lato, c'è l'aiuto ovviamente militare dell'Egitto, poi c'è l'acquisto di petrolio, c'è il traffico della droga, c'è anche l'Arabia Saudita, le fonti dicono che è intervenuta, ecco. E poi si calcolava negli ultimi giorni su una fatturata annuale del traffico degli uomini di 160-170 milioni di dollari. D'altra parte, insomma, quando lei vede arrivare 500 SUV nuovi, armati fino ai denti, ma qualcuno i soldi glieli darà pure, certo. No? E allora, in questo senso, dico, le grandi potenze possono controllare i paesi a loro legati. E non lo fanno. E questo è il punto, professore. Neanche Obama, infatti, sembra interessato al dossier Libia. Insomma, gli Stati Uniti no, l'Europa poco. L'ONU dice aiutateli voi, siamo soli. Beh, gli Stati Uniti hanno avuto già troppi morti in queste guerre, né repubblicani né democratici sopportano più che arrivino dei cadaveri. E allora mandano droni, aeroplani, ma le guerre non si fanno. Quindi insomma tocca a noi. Tocca a noi far la pace, non far la guerra. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo avere un mandato per farlo? Speriamo che il mandato dell'ambasciatore dell'ONU riesca a portare avanti questo mandato. Dato che ha, ma è un po' il segno anche della nostra impotenza internazionale in questo momento? Abbiamo avuto parecchi episodi di debolezza, ma l'episodio di debolezza più grosso è quello sulle trattative dell'Iran. Noi siamo sempre stati il primo commerciante con l'Iran. Se fa le trattative 5+1, cioè le grandi potenze più uno, quell'uno è la Germania, e non si fa il 5+2. Questo è un segno incredibile di debolezza, di uscita dal gioco, insomma. Senta, professor Prodi, parlando di terrorismo, è possibile che Obama e Renzi non abbiano parlato di Loporto, l'italiano ucciso dai droni? Può anche darsi, perché queste verità escono a poco, forse Obama non aveva tutti i dati e non li può dire finché non li ha proprio tutti. Ecco, ma lei ha fatto molti incontri di questo tipo a vario titolo, ma si capisce qual è realmente il livello di confidenza tra i leader, al di là delle retoriche, delle presentazioni pubbliche? Ma la gente pensa che la politica sia il luogo della razionalità. Le assicuro che è il luogo della fiducia reciproca, dell'amicizia, dello sgambetto quando non si ha fiducia. Insomma, contano i rapporti. Ma la missione in Libano e in Albania non la potevamo fare se non c'era un mio rapporto stretto con Chirac, che ha lasciato le sue truppe al nostro comando. Certo, i rapporti contano. Professore, lei ha scritto che ci sono momenti in cui l'Italia ha bisogno di illudersi e non guardare dentro se stessa per continuare a farlo. Questo è uno di quei momenti? Ma può anche essere, perché quando si è stanchi di una situazione, quando il paese è sfibrato... Può capitare questo. Può capitare questo, ecco. Ed è capitato varie volte nella nostra storia. Ma il racconto di un paese che non c'è ma che si sogna, intanto aiuta a stare meglio? Nel brevissimo periodo sì, ma attenzione, perché poi quando vengono al pettine questi nodi diventa un problema gravissimo, cioè una marcia indietro diventa. Senta, Enrico Letta, qui a Mix 24 ha detto che il racconto che fa Renzi del paese è come il metadone, lei è d'accordo? Ma non avendo esperienza di droga non ho nemmeno esperienza di come si torna indietro dalla droga, quindi mi trovo imbarazzato a rispondere a questa domanda. Senta, nel suo libro Missione Incompiuta, scritto con libro intervista, scritto con Marco da Milano, lei scrive che le è sempre piaciuta però la parola rottamazione, perché è la premessa della costruzione. Dunque Renzi ha ragione, ha preso la strada giusta. Se è la premessa di costruire il nuovo, bisogna usare anche i rottami per costruire il nuovo, cioè... Nel mio libro c'è la storia dell'immediato dopoguerra, quando quei tre camion americani se ne faceva uno nuovo, ma si usavano però anche i rottami. Senta, ma per rottamare e progettare insieme che qualità bisogna avere? Bisogna sapere manovrare il volante e mettere la mano al motore. Anche al motore. Ma chi ricorda di aver visto insieme con queste due qualità? Ma nella mia vita mi colpì Giovanni 23 perché sparava all'idea e poi dopo però costruiva e faceva i cardinali come voleva. Senta, professor Prodi, lei dice che tre presidenti del Consiglio non eletti sono una sospensione troppo lunga della democrazia. Allora bisogna votare prima possibile. No, perché la legislatura in fondo se va a termine è sempre un vantaggio per la democrazia. Il problema è di non fare il quarto presidente del Consiglio in modo senza consultare l'elettore. Adesso insomma questo ecco, c'è bisogna pure un giorno decidersi a fare un presidente del Consiglio se abbia vinto le elezioni, insomma. Senta, ma è così perché il ruolo del Parlamento è sempre più fragile e insignificante in qualche modo? Ruolo del Parlamento nelle democrazie sta indebolendosi ovunque, ecco, ma professore... in Italia in modo particolare. Ecco, ma professore, lei ha scritto che chi ha il potere nelle democrazie moderne segue sempre di più gli umori istantanei dell'opinione pubblica e viene guidato dall'emozione, quindi è così. Ma la mia emozione è stata proprio sentire brutalmente questa obiezione da parte cinese, sentirmi dire ma insomma voi avete accorciato i tempi della democrazia avendo elezioni continue. Quando io rispondevo che ci siamo affezionati, dissero ci arriveremo anche noi, però attenzione che ogni piccola elezione è diventata vitale e voi non pensate più alla scuola, alla pensione, a risolvere i problemi di lungo periodo e tutto il breve periodo ecco. Ma infatti è risolvibile secondo lei il conflitto tra la democrazia governante, quella che ha bisogno di rapidità di decisione, e quella inclusiva che vuole la concertazione? Io penso che le società intermedie siano molto importanti perché sono il sale della società, no? Non si possono trascurare. Poi c'è il momento in cui il governo fa una mediazione di autorità, no? Certo, sceglie senza ignorare. Sceglie col dialogo e con la coscienza. Senta, ma l'Italicum va nella direzione giusta oppure no? Non ho partecipato all'analisi dell'Italicum sotto l'aspetto della legge elettorale. Io sono sempre stato da giovane per il principio inglese dell'uninominale, poi siccome c'è la frammentazione era troppa, si sarebbero fatti i parlamentari col 20% dei voti, sono passato al sistema francese. Ma lo voterebbe lei questo Italicum se fosse in Parlamento? Non ne ho la minima idea, proprio non sono in Parlamento finalmente, quindi... Vabbè. Non si pronuncia. Senta, professore, lei dice che il welfare è stata la più grande conquista del Novecento, ma il Job Act lo aggiorna o lo distrugge? Il welfare è stata la più grande conquista, noi lo difendiamo in modo debole. Il Job Act aggiusta qualche pezzo di questo, ma il problema non è nel solo aspetto della durata o della temporalità del lavoro. Il problema sono le garanzie a tutte le parti sociali più deboli. Che non ci sono ancora, secondo lei, abbastanza? No, ma poi la nostra società le sente meno che in passato, ma tutte le società europee. Quando la Merkel dice noi abbiamo il 7% della popolazione mondiale, 20% della ricchezza mondiale e 40% del welfare, non possiamo andare avanti così, un tempo si sarebbe detto noi dovremmo far tutto per conservare il welfare. È cambiato proprio il mondo. Il mondo, naturalmente. Senta, però in Europa, dove invece si decide a 27, c'è la paralisi e i 27, è lei che lo dice, sono al servizio della Germania. Allora questa inclusione ha dei problemi. Beh, è cambiato il mondo, l'indebolimento della Francia, il fatto che la Gran Bretagna dica fra poco c'è un referendum, non so se sono dentro o fuori, ha lasciato la Germania, tutti corrono sotto l'ombrello tedesco, tutti. Infatti lei ha detto, anzi ha scritto, che le politiche tedesche producono danni irreparabili per i popoli europei. Allora chi, come per esempio l'Italia, professor Guarino, diceva che il trattato di Maastricht è stato tradito, aveva ragione. Beh, non lo dica a me, che con un'intervista in cui dicevo che era stupido, me ne sono attirato l'ira di tutti. Ma l'Europa era sempre è cresciuta con un equilibrio di minoranze, adesso non siamo più in questa situazione. Non c'è più questo e abbiamo bisogno di una Germania leader responsabile. A proposito di interessi, però, la Merkel fa molto i suoi, perché lei difende le sue banche popolari, noi invece no. È d'accordo con la nuova legge sulla governance? No, ma io sono d'accordissimo sul fatto che le nostre banche popolari non sono certo peggio, anzi sono meglio delle Landesbanken. I tedeschi li hanno difesi e noi invece no. Questa è la differenza. Senta, professor Prodi, lei per far entrare l'Italia nell'euro ha messo una tassa ad hoc. Oggi farlo vorrebbe dire sollevazione popolare. Perché è morto il sogno europeo? Forse era troppo inclusivo. No, perché sono cambiati i leaders, perché i partiti populisti hanno fatto delle avanze e i leaders hanno inseguito gli umori, come dicevamo prima. Ma intanto l'Europa ha considerato Varoufakis un dilettante perditempo. Lo pensa anche lei? Ma dilettante perditempo no, però è stata la grande delusione. Insomma, invece di stare a Atene con il cacciavite a fare i conti, lui andava in giro per il mondo a fare il divo. E a Bruxelles si sono irritati in un modo che lei non immagina neanche. Immagino che la BCE, immagino che Draghi non fosse contento. Tensioni terribili, no, perché vogliono altra gente. Senta, quindi è commissariato adesso per far piacere alla BCE e a Draghi? No, perché la Grecia deve concludere. Ma esce o no dall'euro? No. Ma Putin sembra almeno così, sembra sempre più interessato alla Grecia. Lei crede possibile un cambio di scena sulle alleanze? No, sono giochi. No. Giochi? Giochi. Quindi non esiste un'alternativa all'Unione Europea? No, niente, nessuna alternativa. Senta, intanto le sanzioni contro la Russia però danneggiano l'Europa, l'Italia moltissimo, non gli Stati Uniti, che le vogliono sempre più dure. È una divergenza strategica di interessi fra Stati Uniti e Europa? No, è una divergenza fra europei. La vera divisione sono i paesi del nord in genere, i baltici e la Gran Bretagna. Legata agli Stati Uniti ovviamente, ma le tensioni sono all'interno dell'Europa. E quindi sti 27. Il problema è nostro. Senta, intanto Putin e il Papa hanno bloccato Obama quando era pronto a bombardare la Siria. È un rapporto che cresce quello tra Putin e il Papa? No, non è un rapporto stabile, è un rapporto sui problemi, questa è la bellezza della cosa. No, lì c'era un problema di pace, il Papa è intervenuto e Putin intelligentemente gli è andato dietro. Senta, anche in America Latina il Papa è protagonista, Obama lo ringrazia per l'aiuto che ha avuto nel ristabilire rapporti con Cuba, è un modo per rientrare in gioco in America Latina? No, il Papa sta rientrando in gioco in tutto il mondo, non è questione di... il problema del Papa di oggi, la grandezza, che è un soft power, come viene chiamato in termini, cioè un potere dolce che non aveva avuto nessuno, e quindi i governi non ne tengono spesso conto, ma i governanti questa è la differenza, capisci? Senta, sul genocidio degli armeni la posizione del Papa ha provocato una reazione dura della Turchia. Oggi la Turchia è più lontana o no dall'Europa? La Turchia si è già allontanata dall'Europa perché ha una sua politica regionale di grande potenza e quindi è naturale il discorso del Papa. Poi tra l'altro sembra che ci sia di nuovo un dialogo. Sì, un dialogo. Però senta cosa diceva Gheddafi dell'ingresso in Europa della Turchia. Qual è il rischio della Turchia in Europa? No, io non ho detto che la Turchia non deve entrare a far parte dell'Europa. Ho solo spiegato le conseguenze che ci saranno con l'entrata della Turchia. E cioè? Cioè faccio una previsione su quello che succederà dopo l'adesione della Turchia. Qual è il rischio? Per quanto riguarda il mondo islamico, anche gli estremisti islamici gioiscono per la possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo è il loro cavallo di Troia. Io sottolineo soltanto le conseguenze dell'entrata del cavallo dentro Troia. Beh, forte. Forte, ma ha sbagliato. Io ho sempre detto che la Turchia doveva essere membro, ma che ci volevano almeno 30 anni. Questa era la cosa. Cioè, era l'importante, era il processo di avvicinamento con la Turchia. E invece le cose sono andate in modo con delle chiusure reciproche che adesso la Turchia va per conto suo. Senta, professor Prodi, parliamo dei suoi errori politici in Italia. Perché dovremmo metterci 3 ore. No, ma adesso andiamo per sintesi, se riusciamo. Perché quando ha vinto le primarie del PD non ha fatto il suo movimento politico come volevano in moltissime? È stato il mio vero errore, ma io ero entrato in politica per unire, non per dividere. Non me la sono sentita di fare un partito che avrebbe potuto dividere e non unire. Pentito? Sì. Perché allora avrebbe avuto la grande efficacia. Senta, resta il fatto che lei ha battuto 2 volte Berlusconi alle elezioni, ma è stato fatto fuori 2 volte dai suoi. Da chi? D'Alema? Chi? No, la prima volta, Bertinotti e una buona parte degli ex PC, ricordiamo come Gargonza, certo, già si era presentato in opposizione. La seconda volta sono stati comprati dei voti anche, quindi è stato proprio una cosa molto brutta, ecco, molto brutta. Ecco, ma professor Prodi, forse Renzi ha semplicemente capito la sua lezione e non vuole fare gli stessi errori, non crede? Ma spero proprio che non faccia gli stessi errori. Può darsi che abbia capito. Può darsi che abbia capito, ecco, bisogna vedere come l'applica. Adesso vedremo quello. Renzi dice che il buono dell'Ulivo, appunto, la sua creatura, è nel PD, nel suo PD che vince le europee con 40% dei voti. Ma potrebbe aver ragione. Nel vincere le elezioni, sì. Nel resto il problema del Partito della Nazione è proprio una concezione diversa. Ma perché non le piace il Partito della Nazione? Ma perché i partiti sono partiti, la parola partito vuol dire prendere parte, vuol dire avere un programma, una visione precisa. E le riforme sono una visione, sì, del programma. Dov'è in Europa in cui lei non ha due partiti almeno? Che si contendono il potere. Quindi lei dice bisogna, ci vuole niente partito della nazione. Partito della nazione non le piace. Non c'è in America, non c'è in Europa, insomma, almeno che lei non intende un partito che cerchi di interpretare i grandi disegni del paese. Ma allora tutti i partiti sono partiti della nazione. Senta, professore, lei ha liquidato l'IRI e realizzato la privatizzazione, è stato un errore? No, nella prima missione all'IRI, 7 anni, ho risanato l'IRI ed è diventato. Poi nella seconda avevo l'obbligo. Ma lo rifarebbe così? Forse privatizzerei qualche impresa con capitalisti stranieri. Perché? Perché gli italiani veramente non hanno capito di poter coprire un grande ruolo nel futuro. Cioè gli imprenditori italiani non ci hanno messo i soldi. Cioè non credevano nell'Italia? No, nemmeno nella privatizzazione dei telefoni, insomma. Le hanno presi come strumento di breve periodo. Senta, lei scrive che quella dell'IRI però è stata la miglior classe dirigente italiana, allora l'ha fatta fuori. Vabbè, non lo scrivo io, è che li hanno tutti assunti, no, dico non lo scrivo solo io, è che li hanno assunti di fatto in tutte le imprese perché erano i migliori, questa è la prova del nome. E quindi i cosiddetti boiardi vanno rivalutati? Sì. Sì. Visto con quello che è venuto dopo, sì, certamente. Senta, meno Stato e più mercato vuol dire per forza sviluppo? Bisogna vedere come lo si fa, non idolatriamo nello Stato e nel mercato, per favore. Ma l'economia mista pubblico-privato per l'Italia, ha portato l'Italia a essere il quarto paese industriale del mondo. Certo, ma l'economia è fatta sempre da una base che è il mercato, con lo Stato che gioca, interviene e aiuta, così fa la Germania, così fanno tutti i paesi. Ma ha senso fare cassa con le nuove privatizzazioni? Se ne fa poco, ormai c'è poco da privatizzare. Ma la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe essere un nuovo IRI? È molto più limitato come presenza, ma può veramente farci entrare in alcuni settori in cui siamo fuori, come il turismo, come i settori tecnologici. Quindi può avere una funzione. Può avere una funzione. Senta, sì. Per essere ottimista, lei dice che l'attivo della nostra bilancia dei pagamenti, abbiamo sentito anche prima il giornale radio, ci dice tutto sul futuro dell'economia italiana. Che cosa ci dice? Ci dice che non abbiamo più grandi imprese, ma abbiamo 3-4 mila medie imprese che possono diventare molto forti e nella loro piccola nicchia leader anche mondiali del mercato. Le imprese dell'imballaggio bolognese, le ceramiche, tutte queste cose sono leader mondiali. Ecco, lei conosce bene la Cina, insegna e trova nei giovani cinesi lo stesso slancio, lo scrive, che c'era in Italia negli anni del miracolo, è così? Sì, anche se negli ultimi anni ne vedo una mentalità che io chiamerei imperiale. Cioè hanno questo senso di essere primi nel mondo che diventa una specie di senso collettivo. Problematico. In Cina, sulle tracce del padre gesuita Matteo Ricci, Papa Francesco potrebbe arrivare a Pechino? Penso proprio di sì. Professor Prodi, il 1° maggio si apre l'Expo, voluta dal suo governo per Milano, governata allora dal centrodestra di Letizia Moratti. È un esempio della politica inclusiva alla Prodi, come la intende lei? Ma quando si fa una battaglia per il paese, si deve vincere. Io ho telefonato a tutti i capi di Stato delle isole del Pacifico, giorno, notte, eccetera. E i turchi, che pensavano di aver vinto, hanno preso una suonata. Ma senta, ma vista adesso la considerano un successo l'Expo? Ma io spero proprio di sì. E ci andrà? Ma io penso proprio di sì. Cioè, il primo maggio sta là. Insomma, ragazzi, ho fatto delle notti per vincere. Okay. Ripeto, non era una mia idea l'Expo. Quando c'è in valorità dobbiamo vincere. Senta, un'ultima domanda. Suo fratello Paolo, che è uno storico, dice che una delle ragioni della grandezza dell'Occidente è consistita nel non espellere il sacro dal suo orizzonte. È così, ha torto. Ha proprio ragione, ma con questa meravigliosa divisione che il cristianesimo ha fatto fra il civile e il sacro, fra lo Stato e la Chiesa. Senta, ma perché non usa Twitter? Ma non uso Twitter semplicemente perché il Twitter è un modo breve di ragionare che non è mio caratteristico. Ma poi se lei usa Twitter e si mette in dialogo, il dialogo le prende tutto il giorno, allora deve far twittare da qualcun altro. E la cosa non mi piace. Un'ultimissima, preferisce andare in bicicletta o correre? Correre d'inverno e in bicicletta d'estate. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Metropolitana è entrata un'anima denudata di ogni materia, di qualunque brandello di caducità, ed era pura luce, ed è diventata musica, canto, ebbrezza, ed è diventata pure desiderio, perché quest'anima era quella di un uomo che aveva avuto addosso la tempesta dell'odio e del tradimento, vibrava nel vortice della rete sotterranea, scatenando intorno a sé gli sguardi delle donne e la soggezione degli uomini. Malgrado fosse nuda, quest'anima veniva ghermita dai passanti per portarsi via ognuno un pezzo di quell'esistenza, e chi non riusciva ad avvicinarsi sferrava calci. E quando il Sufi, col suo vassoio di terra da cui sbuca il tulipano, ha fatto ingresso alla stazione, quell'anima ha finalmente trovato dimora, è diventata goccia di pioggia nella custodia di quel fiore, come Shikadim di Tarkan. Musica Turchia. Alla fuoco. Sì, è in tema, è in tema, sì, con Prodi. Sì, va bene, Prodi è stato forte. Ti è piaciuto? Bene, beh, insomma, c'è una visione geopolitica. E poi è un fan di Matteo Renzi. Questo si è visto, questo dico, si è vuole molto, chiaro, bene. Chiaro, lo stima tantissimo. Quello è diverso. Sono diverse visioni del mondo, diverse epoche, diverse. E poi si capisce che voterebbe immediatamente l'Italicum. Sì, tante cose. Vabbè, perché sei così? Non ha detto, non l'ha analizzato. Esatto. Dai, parla della tua bolla, Mario. Questo buttafuoco è tremendo. Sta sempre zizzania. Mamma mia, disastro. Dai, dai. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Che bella, Son of a Preacher Man. Allora, è una musica che mette allegria, perché secondo me noi dobbiamo essere positivi, lo dico da italiano. Allora, oggi prosegue la discussione sulla legge elettorale alla Camera. Però, Giovanni, con tutto il rispetto per la legge elettorale, che sarà pure importante, fondamentale e così via, per me la sfida da italiano si chiama Expo. È il primo maggio, io penso che sarà chiarissimo a tutti che il mondo ci giudicherà per questo, non per l'Italicum. Le leggi elettorali sono strumenti, vorrei ricordarlo, servono solo, sono un metodo, servono a eleggere i parlamentari, cambiano nel corso del tempo, le puoi cambiare sempre e così via. L'Expo resta signori, l'Expo resta come immaginario. Speriamo che vada bene come grande sfida italiana. Esatto, come immaginario. A quindi noi dobbiamo sperare tutti che uniti vada bene, dobbiamo essere uniti. Anzi, perché... andiamo a Milano a vederla stasera. Ah sì, questo sicuro. Va bene. Sicuro. Io vado con Pietrangelo, mi ha detto prima che viene faccio un appello... Insomma, ad essere un po' patrioti ogni tanto, che non guasta. L'Expo è veramente una cosa importante. Quindi la patria si difende anche con l'Expo. Una fetta di prosciutto all'Expo. Basta che sia il nostro prosciutto. Il nostro Salamino. Prosciutto. Allora, dirigente di Forza Italia, ma anche dipendente del Partito Democratico. Tutto ciò succede all'ARS, ovvero Assemblea Regionale Siciliana, una storiella deliziosa che è stata scovata da Giuseppe Alberto Falci. Oh. E comunque non è uno scherzo, perché qui c'è la parabola politica di Giuseppe Fallica, detto Pippo, che per 13 anni è stato parlamentare Montecitorio, già a braccio destro di Gianfranco Micciche. E insomma, questo Fallica da giorni passeggia per i corridoi che portano a Sala d'Ercole, ovvero sia la sala del Parlamento siciliano, oltretutto il più antico Parlamento d'Europa, e si domanda: ma che ci faccio qua io dentro il Partito Democratico? Insomma, una storia bellissima. Lui si ritrova a lavorare per il gruppo parlamentare del PD fino a una certa ora. Mettiamo adesso fino alle 17, dopodiché torna a fare politica per Forza Italia in qualità di dirigente. Dipendente regionale, Fallica ha attraversato tutta la diaspora berlusconiana, perché da Forza Italia è andato poi con Micciche, da Micciche poi è transitato in una sorta di sigla di partito che si avvicina all'attuale governatore di Sicilia. Insomma, la normale dialettica, anzi trialettica, anzi quadrilettica, anzi pentalettica, tipica della politica del trasformismo siciliano in vista del famoso PDR, cioè il partito di Matteo Renzi, che diventa PDN, cioè Partito della Nazione, di cui ha parlato prima con un termine entusiasti Romano Prodi. Il PDN, laddove si dimostra che l'impostura del potere, la Sicilia di Rosario Crocetta, è la cuccia calda del cinismo di Matteo Renzi. Per cui buttanissima Sicilia, buttanissimo è Renzi. Cultura Sicilia con l'autonomia, io pure a mezzia e fine mi incarestia. Hai visto? No, cartellino giallo. Cartellino giallo, vero Sara? Tocca a te. Insomma, per lui un complimento è. È così casto. Casto, non crasto. Falsi uccellini, falsi tweet. A 10 giorni dalle elezioni in Inghilterra, i due candidati, Cameron e Miliband, si sfidano sul social che tanto piace anche al nostro premier Renzi. Ha iniziato Abby, 17 anni, con un tweet di apprezzamento per Miliband ed è partito il suo fan club con 28.000 retweet. Casualmente, poco dopo, una 21enne ha lanciato il fan club di Cameron. Casualmente. Cameron però, capito, ha la voluta più grande, maggiorenne, che però ha avuto solo 8.000 retweet. Quindi io non so se si misurano i leader anche attraverso i tweet, sono i nuovi sondaggi. Beh, no. Ma ragazzi, ma davvero la politica si è rinchiusa in 140 caratteri da sola? Ma qui è tutto un cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Canzoniere. Canzoniere. Nei giorni di mercato le piazze sono strapiene, frutta e verdura a perdita d'occhio, aglio e cipolle a profusione, tutto il giorno del resto si grida, si scherza, si canta, la gente si scontra e si azzuffa, se la spassa e ride in continuazione, l'aria mite e il cibo a buon prezzo facilitano la vita, ciascuno vive appena può, all'aperto e di notte. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, pubblicità. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Mix 24. Allora Mario, andiamo sì. con un'altra bolla. Sì, sempre bella musica, vai. Proprio bella questa, eh. Einau si chiama. Einau. London Grammar, sì. Allora, Washington Tokyo, ricordavi, no? Ieri, lo ricorderanno anche i nostri ascoltatori più attenti, che dicevamo che c'era un incontro importante, una visita di per sé storica di Shinzo Abe a Washington. Bene, con Obama hanno siglato un accordo di cooperazione sulla difesa che è molto importante, okay. Perché praticamente di fatto si sancisce che Stati Uniti e Giappone stanno mettendo un ombrello di sicurezza intorno alla Cina, che in quelle acque, che come ci diceva Prodi, ha mire tendenze imperiali, esatto, diciamo. A mire egemoniche molto grandi, infatti come vedi il filo della storia continua a snodarsi di fronte ai nostri occhi, quindi sarà importante vedere adesso come si tradurrà questo accordo dal punto di vista della strategia militare, delle armi che verranno fornite, delle difese missilistiche, naturalmente della potenza marittima. Una cosa è certa, Japan is back, il Giappone è tornato. Insieme agli Stati Uniti. Insieme quindi. Agli americani. Non sei convinto, Pietrangelo? Io niente adesso. Tu hai fatto partire questa. Vai, vai, vai. Tocca ancora a te, Mario. Questo è un pezzo leggendario, Dai. Questo nel 1979, in questa settimana, entrò al primo posto nella classifica della mitica Billboard. Senti, senti. Prima come la grande muraglia di Apple. Perché praticamente, che cosa succede, Giovanni? Succede che Apple, ti ricordi che ieri dicevamo, attendiamo i risultati della grande mela, dell'informatica e così via. Bene, il risultato è che Apple ha stracciato tutti i record dei risultati economici. Sostanzialmente, insomma, abbiamo un più 27%, che è pari a 58 miliardi di dollari. Le vendite dell'iPhone sono a più 40%. Giovanni, 61 milioni di pezzi, oltre 61 milioni di pezzi. La Cina per Apple è diventato il secondo mercato mondiale. Quindi ha superato l'Europa, ancora una volta viene fuori questo filo, no? Però di certo. Diceva quelle cose, l'accordo di Shinzo Abe, Apple che ha il suo secondo mercato. Il mondo va da un'altra parte, è molto semplice. Il mondo sta andando in Asia, pensa che tutti i mercati emergenti per Apple sono cresciuti del 58%. Quindi il dollaro è più forte, doveva essere un problema, ma pare che Apple per ora lo sia di più. Salamino! Felicità! Città dell'Italia, l'Italia è felice, ma felicissima l'Italia, intanto c'ha l'Italicum e poi nelle mani di Matteo Renzi non può che essere felice l'Italia. Io poi ho cercato di fronteggiare la musica di qualità di Mario Secchi proponendo Felicità con Albano e Romina, ma tutto ciò per raccontare un capitolo, anzi per ripetermi in un capitolo, perché ho ricevuto tantissimi messaggi da parte degli insegnanti. E ripetiamo quello che sta succedendo. 100.000 insegnanti verranno assunti per decreto. Naturalmente la buona novella non deriva dall'hashtag La Buona Scuola, che è l'assunto fondamentale della suggestione renziana, ma queste assunzioni, che non sono una magnanima regalia, arrivano in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Però c'è un enorme però. Il disegno di legge non potrà essere approvato prima di metà giugno. Tutti gli esecutivi dovrebbero essere messi a regime in piena estate ed è difficile quindi immaginare che maestri e professori entro settembre siano pronti. Il ministro Stefania Giannini è così fuori gioco da risparmiarsi la figuraccia. E l'esordio della buona scuola è ritardato. Dovevano lavorarci già a marzo, ma sono così presuntuosi e sfrontati da sottovalutare lo sciopero in arrivo. Il ginepraio è immane. Per esempio, 6.000 partecipanti del concorso 2012 sono risultati idonei, ma, sottolinea il governo, non vincitori. Quindi c'è da capire anche questo dilemma semantico, semiologico e di segno della differenza tra idoneo e vincitore. Insomma, è incredibile come il capitolo scuola, che è fondamentale per la comunità, sia considerato un fastidio da tutti, compreso dalla cosiddetta opposizione, che non fa che essere afasica su questo tema, su questo argomento. Ci sarà lo sciopero degli insegnanti e certamente non capitoleranno come i minatori con la Thatcher, perché comunque l'Italia è pur sempre quella cantata in questa canzone. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. Siamo Massinelli, dimmi re degli assinelli, dove sono i Dardanelli? Professore, io non c'è qualcheduno che ha indovinato il nostro canzoniere? Niente, le domande niente. Sempre più difficili, sempre più colto. Sempre l'aiutino più colto, lo volete? Sempre più colto, dacci un aiutino. Quel frammento si riferisce al delizioso dolce veneto. Mi raccomando, avete capito? Ok, questi mi hanno fatto partire una musica. Vabbè, ok, buona. Vabbè, buona. Devi fare un'altra bolla, tocca a te Mario ancora. Senti, vi do un aggiornamento invece molto serio. Hanno rintracciato finora 18 dei 40 italiani che non hanno ancora dato segni di vita in Nepal. Lo ha annunciato il capo della unità di crisi della Farnesina poco fa. E quindi diciamo, sul Nepal le ricerche sono in corso, ci sono ancora molti nostri connazionali. Il numero di vittime si ipotizza stamattina presto, addirittura potrà arrivare a 10.000. Voglio fare un appello. Come si chiama? Donate, donate, donate. Io l'ho fatto con l'UNICEF, ci sono varie associazioni che lo stanno facendo, e io l'ho fatto per consiglio. I bambini. Sì. Cercate di contribuire perché c'è bisogno. Intanto abbiamo Mauro da Milano. Buongiorno Mauro. Buongiorno, sono emozionatissimo. Perché? Perché vi ascolto sempre. Ah, grazie. Ma Mauro da Milano, però lei è bolognese. Da Mantova. Ah, da Mantova. Ah, ecco, non mi hanno scritto da Milano, da Mantova, infatti l'accento mi sembrava diverso. Allora ha indovinato, cosa fa intanto lei? Ma io sono un operaio, sono qui in officina, infatti devo imboscarmi un attimo. Ah, va bene. allora le facciamo fare in fretta. Mi dica, ha indovinato? Sì, Goethe con Viaggi in Italia. Giusto! Bravissimo! Bravissimo! Feltrinelli! Mamma mia, in fabbrica si fa di tutto però, Ha delle passioni grandi. Sì, io sono un autodidatta, purtroppo mi manca il latino e è un grande rimpianto che ho. Ma fantastico, ma in che fabbrica lavora? No, non voglio trattenerla troppo. No, però. No, per carità, una metalmeccanica, produciamo macchine per il packaging e andiamo bene perché lavoriamo con l'estero. Bene, certo. Auguri allora, auguri tanti di cuore. La ringrazio. Grazie a lei. Complimenti grazie a tutti voi per la magnifica trasmissione, veramente. Beh, grazie. Qualcosa di più. Molto gentile. Veramente. Bene, intanto da Marina Milone ci facciamo dire di che cosa si parla dopo il giornale radio. Qual è la storia che ci racconti oggi? Il 28 aprile 1945 moriva Benito Mussolini. In due puntate raccontiamo l'ascesa e la caduta di Mussolini. E oggi la prima parte della sua storia, dal socialismo degli inizi fino alla presa del potere e il delitto Matteotti. La puntata è stata realizzata da Sergio Lecinski. Bene, benissimo. Allora, dopo il giornale radio, la prima puntata su Matteotti. Intanto, per chiudere, Irene Grandi con la commedia di Halle.